cosa velocissima perché tra poco arriva mio marito. Oh, per carità. E quindi neanche dobbiamo fargli scoprire che sta telefonando. Chiamateci anche se avete un marito legno come me e quindi dovete restare a fare tappezzeria. Io sono ammogliato. Lo dico con una determinazione perché sapendo che magari mia moglie mi ascolta. Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, se ho ben capito, lei vuole un prestito per comprare una casa. Esatto, esatto. Di 100 milioni. Esatto. Vede, però io purtroppo non la conosco personalmente. Quindi io, dottore, nemmeno io la conosco personalmente, però mi fido. Stia rilassi. Sì, sì, capisco. No, vedi, il problema, lei sa come funzionano le banche? Ha qualche idea? Certo. Così, beh, molto semplice, molto semplice. È tutto un problema di garanzie. Cioè, poi, prestito... Ma mi faccia terminare perché non vorrei passare per questi profittatori che c'è oggi. Io questi 100 milioni non sono il tipo che lei mi dà 100 milioni per la casa, io li prendo e non mi rivedo. No! Direttore! Non sono quel tipo lì! E non gli permetto nemmeno di pensare! E se perfino Roberto Benigni in Tu mi turbi faceva fatica a convincere il direttore di banca, pensiamo a quanto possa essere difficile per tanti italiani oggi ottenere un mutuo per l'acquisto di una casa. Ne abbiamo parlato tante volte nella nostra trasmissione. Negli ultimi anni le compravendite complessive sono scese molte, questa è una delle ragioni. Le banche non danno credito, c'è la disoccupazione, quindi le famiglie si presentano in banca con minori garanzie e molte famiglie sono intenzionate a fare questo investimento ma vi hanno dovuto rinunciare proprio per mancanza di condizioni. E quindi si rassegnano all'affitto, rinunciano un po' a progettare l'acquisto di una casa e ogni mese però tanti denari escono comunque dal conto. Sembra che a questo, Deborah, non ci sia alternativa. Ma noi, come sempre, vogliamo pensare in positivo e provare a suggerire delle soluzioni, delle alternative. Esatto, proprio così. Perché? Perché si sono fatte strada da qualche anno a questa parte nuove modalità di compravendita che permettono anche a soggetti finanziariamente più deboli di diventare proprietari e oggi noi ne parliamo a cuore denari e peraltro se ne occuperà nei prossimi giorni anche il Sole 24 Ore. È vero, infatti da domani per 25 giorni e 50 aggiornamenti con il quotidiano arriva la guida pratica per la famiglia per rispondere a tutte le vostre, ma io direi anche nostre. Sì, certo. Domande su case, condominio, pensioni, risparmio, ma anche scuola, università e molto molto altro ancora. Allora, domani si comincia con tutte le regole fiscali delle ristrutturazioni. Io poi, sono preparata però. Sì, dopo un anno di cuore e denari io mi curo molto meglio e tu qualche segreto per gestire meglio i soldini, insomma, lo hai appreso. Poi arriveranno le tutele per le vacanze, tutti i temi che noi abbiamo affrontato di recente a cuore e denari, per cui per anticiparvi queste guide abbiamo scelto di parlare delle modalità alternative per l'acquisto della casa, in particolare il rent to buy, poi vi tradurremo questo termine, che sarà fra i temi della guida di giovedì prossimo, il 31 luglio. In poche parole, pagando un canone un po' più caro, si inizia a comprare mese dopo mese la casa che stiamo affittando, con la possibilità però di rinunciare a questa opzione. Cuore Denari oggi vi spiega come funziona, quali sono gli aspetti vantaggiosi e i punti sui quali fare attenzione. Sono modalità introdotte talmente tanto di recente che ancora non hanno preso piede in maniera diciamo significativa, in misura significativa in Italia e non esistono evidenze statistiche sulle transazioni che si concludono appunto secondo questa modalità. Quindi, Deborah, novità per l'acquisto della casa ma anche novità nella giurisprudenza. L'ex ente Tabacchi Spa, oggi SPA, oggi British American Tobacco Italia, ovvero che sono poi i monopoli di Stato, è stata condannata a risarcire con quasi €1 milione i familiari di un impiegato milanese morto di tumore polmonare dopo aver fumato dalla metà degli anni 60 sino al 2004, pensate, circa €1 milione di sigarette. In pratica, insomma, €1 a sigaretta fumata. Il tribunale ha riconosciuto il nesso tra fumo e malattia. Noi a Cuore Denari avremo il piacere di avere ai nostri microfoni l'avvocato Carlo Gasparro, che è responsabile tra l'altro del Codacons di Pavia, che insieme al collega Angelo Cardarella ha patrocinato la causa. Per cui, se volete saperne di più, iniziate pure a chiamarci e comunque restate con noi. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Gianmarco ci dice: Debora, puoi entrare quando vuoi, ma io me la son voluta gustare fino in fondo perché questa canzone mi risveglia molti ricordi personali, che forse ho già raccontato una volta, Cuore Denari. Detto questo, però, noi parliamo di casa e di rent to buy, affitto con riscatto. Iniziamo spiegandovi come funziona e per farlo abbiamo chiamato non degli ospiti qualunque, Nicolette. In primo luogo abbiamo chiamato, senti un po', il primo agente immobiliare che nel 2009 ha adattato questo istituto all'ordinamento normativo fiscale italiano. Allora io buongiorno, ringrazio, saluto, io buongiorno, Andrea Russo, il primo appunto agente immobiliare che ha portato praticamente Rent to Buy in Italia. Russo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Agente immobiliare in Verona, giusto? Esattamente. Perfetto. Poi tra l'altro, oltre a Russo, sentiremo anche il punto di vista dei notai, perché dobbiamo capire come ci si presenta con tutte le carte in regola davanti al notaio per firmare un contratto di questo tipo. Buongiorno al notaio Federico De Stefano. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Buongiorno. Allora, messaggio agli ascoltatori. Se avete messo gli occhi sull'annuncio di un'agenzia immobiliare che propone questa modalità e vi siete chiesti come funziona, se volete comprare casa ma non avete un gruzzolo, un anticipo sufficiente ad accendere un mutuo, ma non volete neanche versare denari per un affitto a lungo, allora chiamateci, valuteremo insieme se avete i requisiti per acquistare casa con la modalità del rent to buy e quindi con questa modalità alternativa. 800 24 00 24, come sempre il numero verde a vostra disposizione. Russo, comincio con lei la nostra chiacchierata. La traduzione letterale di rent to buy è affittare per comprare, no? Ma questo che cosa vuol dire? Pago le rate di un affitto come se fossero le rate di un mutuo senza però averlo acceso, senza averlo stipulato? Com'è possibile che io possa lo stesso diventare proprietario nel tempo di una casa in questo modo? La traduzione che io utilizzo di rent to buy è di locazione preparatoria all'acquisto, perché con questa terminologia riusciamo ad esprimere meglio quello che è il concetto anglosassone del rent to buy, che non è assolutamente quello di un pagamento rateizzato, ma piuttosto di un programma preparatorio all'acquisto, finalizzato a dare il tempo all'acquirente di potersi allineare a quelli che sono i nuovi parametri previsti dal mondo bancario per la concessione dei mutui, soprattutto riguardo all'equity, che non è altro che quel famoso 20% di capitale proprio iniziale che il richiedente mutuatario deve dimostrare di possedere per accedere al finanziamento. Oggi che tra l'altro, Rosso, no, la interrompo un attimo, solamente il 20%, c'è stato un momento in cui in realtà non c'era neanche bisogno che le famiglie avessero tutto questo anticipo, perché le banche ci hanno abituato per un tot di anni anche a derogarci quasi integralmente il mutuo necessario per l'acquisto di una casa. Adesso siamo ritornati un po' ad una richiesta di garanzie da parte delle banche come eravamo abituati in precedenza, quindi diciamo è necessario avere quantomeno un 20% di anticipo da dare alla banca. Esattamente. Possiamo dire così. E questa è una barriera che ostacola molto le vendite. Invece, grazie alla metodologia Rent to Buy, l'acquirente può entrare subito nella casa che ha scelto di acquistare versando un piccolo acconto. Normalmente può variare fra un 3 e un 8% del prezzo di vendita concordato. Questo accantonamento, per quanto contenuto, è però destinato a crescere grazie alle somme versate mensilmente, la cui entità solitamente equivale proprio a quella che sarebbe stata la rata del mutuo, che però in questa fase non è stato ancora acceso. Quindi diciamo che le rate dell'affitto, diciamo così, sono un po' un aumento dell'anticipo da dare sull'importo complessivo della compravendita. Sì, ho banalizzato troppo. Spiego meglio. Queste somme in parte vengono imputate a canone di locazione ed in parte ad acconto prezzo. Ho capito. Generando così un effetto leva che porterà l'accantonamento totale al termine del programma Rent to Buy ad un valore allineato ai parametri di equity richiesti dal mondo bancario per la concessione del mutuo. Parallelamente poi si va anche a creare uno storico di versamenti documentati con il quale il richiedente mutuatario sarà in grado di presentarsi al mondo bancario come un cliente collaudato, avendo di fatto puntualmente sostenuto durante il programma Rent to Buy un esborso mensile equivalente alla rata del mutuo che va a richiedere. Russo, no, perché ci sono già delle domande degli ascoltatori. Assolutamente, direi, che stanno arrivando al 349-238-6666 e come sempre al nostro numero verde, lo ricordo, magari c'è un ascoltatore nuovo che non lo sa a memoria, certo. 800-24-0024. Ma volevo chiedere a Russo, un ascoltatore ci scrive, per farla semplice, si chiama Fede, una volta si chiamava leasing, quello che... No, Fede non ci ha preso. Siamo lontani. Forse è più interessante la domanda di Stefano, se l'hai notata, Nicoletta, perché chiede se il rent to buy si può applicare ad un contratto di affitto stipulato già da diversi anni e quindi già in corso. Russo, le è capitato anche di dover gestire situazioni di questo tipo? Sì, ma in questi casi si rifà tutto da capo. Si estingue il contratto precedente e si parte con nuovo. Tecnicamente il programma Rent to Buy si realizza stipulando due contratti tipici, quindi esattamente previsti e regolamentati dal nostro codice civile, che sono il preliminare di compravendita e il contratto di locazione. Quindi non bisogna fare confusione con l'affitto con riscatto, che si realizza invece con il contratto di locazione collegato al contratto di opzione di acquisto. Purtroppo oggi rent to buy e affitto con riscatto vengono confusi e usati come dei sinonimi, ma in realtà... Diciamo che nei termini però ci possono diverse. Anche portare a fare questa confusione, no? Forse qua il legislatore o non so chi dovrebbe insomma impegnarsi magari a adottare due termini. Diciamo che partono da concetti simili, però in realtà dal punto di vista contrattuale sono sviluppati in modo diverso e da qui nasce una profondità di differenza anche nelle garanzie che le due metodologie comportano. Perché purtroppo nell'affitto con riscatto il venditore non è garantito perché non esiste un impegno all'acquisto, ma una semplice opzione unilaterale. E non è garantito nemmeno l'acquirente perché, non essendo il contratto di opzione di acquisto trascrivibile, non vi è la possibilità di tutela in caso di fallimento o morte del venditore o nel caso in cui il bene venga aggredito con una ipoteca giudiziale o un pignoramento. Chiaro. Poi c'è anche... Prego. Sì. No, completi pure. C'è anche un altro problema tecnico nell'affitto con riscatto che viene trascurato, ovvero il fatto che con questa impostazione non si genera l'equity richiesta dal mondo bancario per la concessione del mutuo. L'anticipo, ritraduciamolo di nuovo. Per le banche l'equity deve esistere unicamente in due modalità, o come somme presenti e visibili sul conto corrente del richiedente mutuatario, o meglio ancora come somme versate in modo documentato alla parte venditrice a titolo di acconti e caparre. Nell'affitto con riscatto le somme vengono invece versate unicamente come canone di locazione. Ma vedi, sa tutto Russo. Russo è incontenibile, perché naturalmente è così grande piacere poter far capire come funziona questa novità, anche un po' per ridare movimento al mercato immobiliare. Certo, che facciamo fatica anche ad arginarlo. Anche perché, come dicevi tu, Deborah è stato un precursore di questa modalità di compravendita e quindi si è speso molto e continua a farlo per farla conoscere, soprattutto per mettere un po' i puntini sulle i. Esatto. Ma io volevo chiederle, Russo, ci racconta in breve la sua esperienza e soprattutto qual è la sua sensazione oggi? Sta prendendo un pochino piede e magari a quale profilo di persona lei lo suggerirebbe? Una formula più adatta ai giovani oppure alle persone magari già un pochino più assestate economicamente? Sicuramente il Rent to Buy è la modalità ideale per le giovani coppie che oggi magari hanno una buona capacità di reddito ma non hanno tutto quel livello di equity di capitale proprio iniziale che le banche richiedono. Quindi sostanzialmente è una modalità di compravendita che oggi è fortemente richiesta. purtroppo però dal lato pratico non prende piede semplicemente perché non viene proposta nella maniera corretta. Di fatto oggi costruttori ed agenti immobiliari si riempiono tutti la bocca con questo termine alla moda, ma in realtà poi vanno a proporre altre cose, altre formule che di fatto non funzionano, e non funzionano semplicemente perché non vanno a dare una risposta adeguata a quelle che sono le domande critiche che il cliente acquirente si pone, certo. Ovvero cosa succede se il venditore fallisce, cosa succede se il bene viene aggredito da un'ipoteca giudiziaria o da un pignoramento, e poi la terza domanda è cosa succede se sono io che non sono in grado di andare a rogito nei termini previsti, ad esempio perché non riesco in quel momento a ottenere il mutuo. Allora, insomma, tra tutte le incertezze di cui Russo ha parlato, non c'è quantomeno quella del ruolo del notaio, che dovrebbe essere invece al meglio documentato su questo istituto. Noi abbiamo il nostro De Stefano questa mattina, che saluto di nuovo. Quanti rogiti le capita di dover garantire e a cui far da garante, notaio De Stefano, appunto con questo istituto? Insomma, ne ha fatti firmare molti? No, anch'io devo dire che non è poi così tanto diffuso, è successo in un paio di occasioni nel corso di questo anno. Per quello che riguarda il suo studio, naturalmente. Per quello che riguarda il mio studio, esattamente, la media può essere questa, se ne parla molto anche nel mondo notarile, certamente, ma poi non si arriva a questa tipologia contrattuale, a volte si ripiega su istituti più tradizionali. Io volevo fare anch'io una piccola premessa su questo rent to buy. Il rent to buy è stato importato nel nostro ordinamento, mutuandolo da altri ordinamenti, e si è un po' declinato a seconda anche delle zone o dei vari operatori in maniera diversa, quindi non è una categoria omogenea, ma veramente si possono ritrovare tante differenze. Io volevo sottolineare la differenza innanzitutto con la vendita. La vendita è un contratto che ha una rilevanza immediata, cioè un'immediatezza con lo spostamento della proprietà. Il rent to buy fa parte di quei contratti che creano un vincolo di durata tra le parti nel tempo. Si differenzia, come è stato detto, dalla locazione col patto di futura vendita, per quello che Russo ha correttamente detto, e perché poi quelle sono due, è una combinazione di due negozi. Il rent to buy dovrebbe cercare di portare a una omogeneità, essere un unico contratto al cui interno troviamo gli aspetti della locazione e gli aspetti dell'impegno ad acquistare, quindi è già previsto ab origine che vi sia, se tutto va bene, vi sia il trasferimento di proprietà finale. Certo, il rent to buy rispetto ad altre soluzioni avrebbe il vantaggio di una maggiore flessibilità, nonché di consentire di predeterminare delle clausole di uscita senza particolari dolori, ecco, da questo punto di vista. Invece se cambio dovrebbe, idea posso tirarmi indietro. Invece in genere i dolori ci sono, notaio, perché Il problema è che nessuno ha la sfera di cristallo, quindi la cosa più difficile è di predeterminare, soprattutto a distanza del tempo, quali possono essere le condizioni vantaggiose per entrambe le parti, che ovviamente hanno interessi contrapposti, per uscire perdendo, per esempio l'acquirente cercando di recuperare parte di quanto corrisposto e per il venditore invece comunque di non dover restituire più di tanto. Questi sono poi gli elementi critici che a volte fanno un po' naufragare. Dopo magari con un esempio concreto facciamo, come dire, una simulazione di una proposta di contratto di rent to buy e vediamo come dovrebbe essere secondo tutti i crismi appunto regolari. Le proposte ci piacciono molto come gli esempi concreti e le telefonate dei nostri ascoltatori che ci stanno già chiamando all'800 24 00 24. Noi andiamo subito da Gianni che ci chiama dalla provincia di Viterbo. Esatto, buongiorno. Ne abbiamo due peraltro. Buongiorno, sì. Buongiorno da Viterbo e da Chieti. Sì, sto a Perugia però, per cui vabbè, è un po' bellissimo. Centro Italia qua oggi va la grandissima. Bravo, allora, tempo bellissimo. Meno tempo male, bellissimo, perché fresco, qua nelle prossime ore... Un luglio freschissimo, bellissimo, guardi. Guardate, allora, avete centrato il mio problema. Sì. Allora, io ho già fatto un compromesso, ho dato un 10%. E con mia moglie che è insegnante abbiamo aperto una pratica Impidap e il mutuo ci è stato assegnato, cioè siamo nell'elenco e ci viene dato, stiamo aspettando il perito non si sa quando viene, se viene fine luglio, agosto, settembre, ottobre. Ah beh, io... proprio il lasso di tempo larghissimo, insomma, si è preso tutti. Sì, in Italia, non siamo svizzeri, ho sempre detto determinate persone. Il perito dell'INPDAP, dice lei, Gianni. Sì, il perito dell'INPDAP, perché non ci può stare altro perito se non quello dell'INPDAP. È ovvio, perché è come se fosse quello della banca, certo. Quindi... come se quello della banca. Quindi per cui che mi ritrovo, io ho dato questo 10%, vorrei, ho la necessità di entrare dentro casa, per cui volevo sapere se dando questo 10%, aspettando il perito, posso fare un affitto con rischio. Sì. Riscatto, come si dice, e poi praticamente quello che ho dato, praticamente portarlo poi dopo nel computo generale per riavere poi. Ma tra l'altro, lei Gianni, quando avrebbe previsto, diciamo, di entrare in questa casa? Tutto dipende dal perito? Adesso sì, perché i proprietari, cioè io ho fatto il compromesso, ho dato addirittura come il 31 luglio il punto per definire il contratto. E però dovrò chiedere praticamente domani o dopodomani dovrò chiedere un prolungamento del compromesso. Allora, sì, Gianni, si fermi lì. Andrea Russo, è troppo tardi per ipotizzare di sottoscrivere un contratto di rent to buy? In questo caso gli attori in gioco possono in realtà ancora ipotizzare di farlo? Ma sì, in teoria si potrebbe anche fare, però non vedo opportuno andare a sostenere tutta una serie di costi dal momento che si tratta di aspettare pochi tempo, mesi. Quindi consiglierei semplicemente di prorogare il preliminare, volendo si può avere un'immissione già nella detenzione del bene. Includendo questa clausola nel preliminare. Ecco. In genere quanti mesi è utile avere di fronte a sé per poter sottoscrivere questo concetto? Cioè, quanti mesi di affitto diciamo sono idonei? Allora, normalmente preferisco creare dei programmi rent to buy proiettati in un arco temporale di 3 anni. Questo perché il preliminare deve sempre assolutamente essere trascritto con l'intervento del notaio, perché così lo rendiamo opponibile nei confronti dei terzi e quindi andiamo a tutelare l'acquirente in caso di fallimento o morte del venditore e nel caso in cui il bene venga aggredito da un'ipoteca giudiziaria o un pignoramento. Quindi 3 anni solitamente perché è la durata della trascrizione, certo, che poi andrebbe eventualmente rinnovata. Però tecnicamente si può fare anche di durata più lunga quando serve una durata più lunga per arrivare a creare un adeguato livello di equity che possa agganciare l'acquirente ai parametri previsti dal mondo bancario per la concessione del credito. Ogni operazione viene sempre calzata su misura per ogni singolo acquirente, quindi infatti no, questo bravo, è il buono, cucito su misura. Andiamo a Gianni che ci chiama dalla provincia di Chieti, lo prendiamo e gli rispondiamo dopo, che dici? Ma sì, dai, già intanto salutiamolo. Esatto, che mi pare cosa Gianni vuole, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi adesso dovremmo andare a sentire i mercati, ma possiamo anche fargli possiamo fare. Anticipare la sua domanda, Gianni? Certo. Allora, io non so se già è stata data risposta a questo mio quesito, volevo chiedere questo: nel momento in cui uno vende una casa, la vende e non paga tasse, in questo caso, facendo quest'altra formula, quei canoni di affitto che uno prende, che fine fanno? Perché in un affitto tradizionale si pagano le tasse. Se questa somma va a montare, diciamo, che succede? Che non tutta, mi pare di capire che vi vada per metà, ma Gianni, esatto. Cuore e denari. La sigaretta elettronica mi ha trasformato la mente. Non sono più dipendente e adesso il presente. E di nuovi metodi, di nuove regole parleremo anche nella seconda parte della trasmissione. Parleremo infatti di sigaretta elettronica, oggetto del desiderio di chi è stanco, come si dice, del solito fumo, o metodo alternativo per chi vuole provare a smettere o, perché no, a limitare i danni del fumo. Se svapate, l'invito è di chiamarci al nostro numero verde 800 24 00 24. Fateci capire se e quanto lasciare la bionda per le sig vi ha fatto guadagnare. Ma a proposito di novità, la Philip Morris si sta organizzando per mettere a disposizione dei fumatori un nuovo prodotto. È la sigaretta elettronica di seconda generazione che, a differenza delle vecchie sigarette che bruciano il tabacco, si limiterà a riscaldarlo e manterrà del tabacco il profumo. Verrà prodotto in Italia, nel comune di Crespellano, proprio vicino a Bologna, e nonostante, pensate, la fabbrica Greca comincerà ad operare tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, la nuova sigaretta, come si dice, sta già accendendo polemiche tra i produttori di sigarette classiche e i produttori di sigarette elettroniche, soprattutto perché sarà possibile fumarla al ristorante, al bar e addirittura farle anche pubblicità. Allora, insieme al dottor Roberto Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, parleremo di sigarette elettroniche di nuova e vecchia generazione per capire quali effetti possono avere sulla nostra salute sulla base delle ricerche più recenti. E quindi siete invitati, se svapate o state pensando di lasciare le bionde per le sig, a chiamarci 800 24 0024. Voglio andare a casa. A casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. E noi torniamo a parlare di modalità alternative per l'acquisto della casa, in particolar modo di Rent to Buy, tema che ha acceso grande curiosità da parte dei nostri ascoltatori. Andrea Russo, rispondiamo a Gianni che ci ha chiamato prima. Allora, mettiamoci dalla parte, diciamo, del venditore di un'abitazione. Lui percepisce questa parte di affitto che dovrebbe costituire un anticipo sull'anticipo per l'acquisto finale dell'abitazione. Io cerco di sintetizzare e banalizzare molto, Russo, per far capire ai nostri ascoltatori, no? Ma funziona così come l'ha percepito il nostro ascoltatore di prima? Allora, lui ha percepito la versione dell'affitto con riscatto. Eccolo. Invece qua, nel Rent to Buy, essendoci due contratti distinti, quello che si versa come locazione rimane come locazione definitivamente. Quello che si versa in riferimento al preliminare è caparra e da conto prezzo. Quindi praticamente c'è una spaccatura in due di questa rata, una parte va alla banca e una parte va al venditore? No, va tutto al venditore, solo che una parte costituisce un accantonamento per l'acquirente che quando andrà a rogito se lo vedrà scalare dal prezzo. Una parte invece di affitto rimane a fondo perduto al venditore e serve sostanzialmente per remunerare al venditore il disagio che sostiene per vendere con il Rent to Buy. Disagio costituito dal fatto che l'IMU rimane a suo carico fino al momento del rodito. In più, se il venditore ha anche un mutuo acceso su quell'immobile, bisogna che con l'affitto gli andiamo a coprire la quota di interessi del mutuo, altrimenti il venditore va a perdere i soldi. Diciamo che possiamo anche comprendere i motivi per cui ancora questo istituto non prende tanto piede, perché non è proprio di facile comprensione immediata. No. Ecco, quindi bisogna veramente che anche gli agenti immobiliari, come peraltro Russo sta facendo perché li addestra in tutta Italia, capiscano molto bene anche i vantaggi economici, giuridici, insomma fiscali di questo istituto. E proprio a proposito di questi aspetti, notaio De Stefani, torno da lei. De Stefano, allora, un'ascoltatrice ci sta scrivendo molte mail, intanto ci chiede quanto costa la registrazione di questo contratto, aspetti dei quali immagino dovete occuparvi voi notai. Costa come la registrazione di un contratto di locazione o come un preliminare di vendita? Come un preliminare di vendita per quello che riguarda la parte del preliminare e quindi dell'accordo vincolante per la futura vendita e per il futuro trasferimento di proprietà. Gli ascoltatori stanno centrando uno dei punti critici di questo istituto, cioè che è la moltiplicazione delle imposte, proprio perché vi sarebbe la sovrapposizione dell'applicazione della disciplina anche tributaria della locazione con quella dei trasferimenti immobiliari della compravendita. Quindi, calcolatrice alla mano, questo istituto al momento non è particolarmente competitivo rispetto a una vendita immediata, al di là del fatto che il venditore vorrà un prezzo maggiore perché diluisce nel tempo, ma comunque c'è una dispersione di utilità economica. Allora, proprio per questo, che è il punto critico, quello che potrebbe determinare il successo di questo istituto è riuscire a sostanzialmente eliminare questa sovrapposizione. Ovviamente questo sarà necessario un intervento legislativo, ma che la prassi, ecco, come è successo per il leasing, il factoring, altri istituti, è ovvio che più la prassi si sposa in un certo senso, poi il legislatore lo segue. Quello che secondo me potrebbe, questa è un'opinione personale, se vuole anche di altri colleghi che condividiamo questa impostazione, la cosa migliore sarebbe cercare di immaginare tutto traghettato nell'ottica del trasferimento immobiliare, quindi tutto quello che viene dato anche per tanto tempo, anche per 3 anni, a titolo di acconto, comunque che venga considerato come un anticipo delle imposte tutto pagate acconto per il trasferimento immobiliare. In modo che poi, sono, ricordiamole peraltro, notaio, sì, no, le tre imposte. Per la caparra, lo 0,50, se invece viene qualificato come acconto il 3%. Attualmente con la trascrizione del preliminare, cioè con la registrazione del preliminare, questi importi comunque vengono poi detratti dall'imposta che si va a pagare col trasferimento definitivo, quindi vi è sostanzialmente una un'economicità, perché si anticipano delle imposte ma poi se ne pagano meno dopo. Quindi è questo, però le criticità sono quelle che sono state rilevate prima. Oggi la trascrizione preliminare può avere un'efficacia massima per 3 anni, quindi una delle cose che sarebbe da fare, anche a costo limitato dal punto di vista del gettito erariale, è di forse aumentare questa efficacia prenotativa del preliminare, quindi immaginare che il legislatore intervenga con qualche piccola modifica, ritoccando appunto o esplicitamente dichiarando che queste tipologie di negoziazioni non viene applicata la disciplina della locazione, di modo tale che effettivamente non ci sia una dispersione anche dal punto di vista dei quindi costi. Quindi con qualche piccolo aggiustamento potrebbe avere più appeal. Certo, però ovviamente bisogna che prima gli interpreti, gli operatori, quindi notai, agenti immobiliari e comunque tutti coloro che si occupano di transazioni immobiliari, dobbiamo mettere a punto che ancora manca forse una soluzione unitaria, una ipotesi di contratto tipo che vi assicuro non è facile, perché vi faccio già un esempio. Per me la grande distinzione è anche la qualità del venditore, perché se il venditore è un'impresa, un costruttore, e ci sono già ascoltatori che ci stanno facendo questi è un privato, un altro. Mondo, quindi già lì forse quantomeno bisognerebbe farne almeno due cugini di contratto. Credo che tra l'altro Russo sia d'accordo con lei, adesso lo risentiremo. C'è un'ascoltatrice, notaio De Stefano, che ci scrive: Elisabetta, ho stipulato un preliminare di compravendita da pochi giorni con formula rent to buy, ma questa dicitura non è specificata nel contratto. Va bene questo contratto, notaio? Ma non è necessario, cioè il nome del contratto non è vincolante, bisogna capire se come è stato strutturato, cioè questi pagamenti come vengono imputati, quali sono i vincoli, i diritti di uscita senza penali e tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso. Quindi il nome non vuol dire nulla, la sostanza non deve essere, sono le clausole contrattuali come vengono declinate al caso concreto. Benissimo. Andiamo a Prato, sì. Deborah, c'è Simone con una bella domanda. Sai che a Prato ci ascoltano tantissimo, ci chiamano in tanti, non so se ci hai fatto caso. Bravi, infatti noi adoriamo le persone che chiamano e soprattutto se chiamano da Prato. Buongiorno Simone, buongiorno. È un po' il nostro fidanzato lui a questo punto. Buongiorno a tutti e due. Allora, la mia domanda è, io ho un negozio di parrucchiere, l'affittuario voleva acquistare. Sì. Ora, problematiche di liquidità e tutto il resto, e quindi mi interessava questo discorso del rent to buy, se poteva essere applicato anche al mio caso. Quindi una transazione di carattere commerciale. Russo, si può fare? Certo che si può fare, il rent to buy si può fare sugli immobili residenziali, sugli immobili commerciali, industriali e addirittura anche sulle strutture alberghiere. Volevo solamente precisare però che con lo schema contrattuale che utilizzo io, dei due contratti tipici tra loro collegati ma che restano comunque autonomi, non incontro assolutamente problematiche a livello fiscale di doppia tassazione, è tutto estremamente molto lineare, trasparente e non ho mai incontrato questo tipo di problematiche. Se naturalmente appunto il contratto si fa con due contratti tipici differenti e separati. Allora guardi, facciamo una cosa, abbiamo 2 minuti prima di andare al nostro prossimo approfondimento. Russo, facciamo finta di voler fare una compravendita secondo questa modalità, no? Facciamo proprio un esempio pratico, mi invento di avere interesse su un bilocale, ipotizzo una cifra da 200.000 euro, ci fa una simulazione di come funzionerebbe con il rent to buy, ammettiamo di avere interessati a questa compravendita due coniugi, una coppia di 35 anni che non ha il capitale iniziale e quindi con la banca che non concede nulla, no? Si può comunque comprare questa casa? Ci fa un'ipotesi di quali passi deve fare nei confronti di un venditore? Ammettiamo che questo sia privato, poi magari se ce la facciamo anche l'ipotesi di un costruttore. Russo. Allora, guardi, apro il mio simulatore e le faccio proprio una simulazione in diretta. Benissimo. Allora, anche il simulatore, hai capito? 200.000 euro, sì. Ok. inseriamo una caparra, mi dice che questi acquirenti non hanno liquidità, quindi teniamo proprio la caparra minima del 3%, che in questo caso ammonta a 6.000 euro. Poi andiamo a evidenziare già nella pianificazione finanziaria quelle che sono le spese notarili per la registrazione e la trascrizione del preliminare, che ammontano qui a 2.212 euro. Fermo restando quanto ha detto il notaio, che poi tutta l'imposta di registro la si recupera all'erogito, e solitamente poi se si fa erogito con lo stesso notaio che ha fatto il preliminare, essendo stata fatta gran parte del lavoro all'inizio, al momento della stipula del preliminare, il notaio solitamente ne tiene conto, quindi alla fine non c'è poi un maggior costo. Poi dobbiamo considerare le commissioni di agenzia se la casa l'ha intermediata un'agenzia. Certo. Quindi, quanto prendete voi per questa operazione? Ma normalmente la media in Italia è il 3%. Okay. Poi se c'è l'assistenza di un consulente Rent to Buy della mia rete, noi in questo caso chiediamo un compenso dell'1%. Quindi evidenziando tutti questi costi, la liquidità iniziale che serve è di 17.972 euro, che è pari al 9% del prezzo di compravendita pattuito. E questo è quello che va spalmato negli anni, diciamo, di affitto? No, o quello che serve subito? All'inizio, che serve all'inizio. Poi ogni mese dovremmo versare una somma che in questo esempio ammonta a 833 euro, perché dobbiamo versare una somma come acconto prezzo che io qui ho conteggiato nell'ordine del 4% annuo, perché questo mi serve unitamente alla caparra in tre anni per andare a creare un livello il montante di diciamo, del 15%. Okay. Poi dobbiamo versare anche un po' di canone di locazione per pagare il disturbo al venditore. Io qui ipotizzo che il venditore non abbia in corso un mutuo e quindi può andar bene anche. No, facciamo la cosa più semplice possibile. Dobbiamo chiudere, Russo, quindi l'ultimo quindi messaggio 166 finale. 166 euro al mese come affitto e 6,66 come invece accantonamento. Allora, speriamo stamattina di aver quantomeno suscitato le curiosità intorno a possibili acquirenti appunto di una casa, della casa della propria vita, attorno a questo strumento. Abbiamo capito perfettamente che non è per niente banale, per niente semplice, però insomma se ci dà l'opportunità di poter acquistare la casa dei nostri sogni senza come dire affogarci all'inizio, e quindi diciamo che l'anticipo che dobbiamo mettere a disposizione è più basso di quello che andrebbe messo a disposizione in una compravendita tradizionale, magari insomma andiamo ad informarci magari anche prima da un notaio, no, De Stefano, perché anche lui è lì, oltre che Russo, poterci dare tutte le informazioni su questo strumento. È necessario pianificare con anticipo e valutare tutti i vari rischi, non deve essere una decisione fatta improvvisando, ma come appunto abbiamo cercato di evidenziare, ci sono delle criticità che è bene analizzare per tempo. Allora, tra l'altro, per tutti coloro che ne volessero sapere qualcosa di più, c'è anche la guida pratica del Sole 24 Ore di giovedì 31 luglio, se non mi ricordo male, quella su questo argomento. Le guide però giovedì iniziano 31 domani, luglio. Esattamente. Cuore e denari. Guardo pigramente le spire profumate, lo vedi? Fumo a piccole boccate. Vorrei fermare un poco questa punta di fuoco, vorrei fermare il tempo, ma il tempo passa e va. E adesso, come annunciato, ci occupiamo di una sentenza destinata a fare storia. Il Tribunale di Milano condanna in primo grado gli ex monopoli di Stato a risarcire con quasi 1 milione di euro i familiari di un impiegato milanese morto di tumore polmonare dopo aver fumato dalla metà degli anni 60 sino al 2004 circa 1 milione di sigarette, in pratica 1 euro a sigaretta fumata. Il Tribunale ha riconosciuto il nesso tra fumo e malattia e noi vogliamo saperne di più, per questo abbiamo il piacere di avere i microfoni di Cuore Denari l'avvocato Carlo Gasparro, che è responsabile del Codacons di Pavia, che insieme al collega Angelo Cardarella ha patrocinato la causa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno avvocato. Allora, peraltro possiamo anche un po' ricordare quello che succede negli Stati Uniti, no? Dove le cause, la litigation alle grandi compagnie di tabacco sono praticamente all'ordine del giorno, c'è anche una grande cinematografia su questo, no? E sì, ci sono risarcimenti peraltro milionari, avvocato. Sì, effettivamente questa è la prima sentenza in Italia che potrebbe, aprirà sicuramente un nuovo scenario sulle cause da, le cause da morto da fumo, quindi sulla litigation tobaccos. Avvocato, ricordiamo però che si tratta solo di un primo grado e quindi riformabile in appello, per mettere le mani avanti. No, sicuramente per una questione di correttezza deve essere chiarita questa circostanza, che è ancora una sentenza di primo grado, ci sarà l'appello, sicuramente ci sarà la Cassazione che si pronuncerà in via definitiva su questa annosa questione. Però con tutta onestà bisogna riconoscere che la sentenza è una sentenza ben motivata e i margini di una riforma in appello sono estremamente bassi. Bene. Anzi, noi riteniamo che tra tutti i danni che noi abbiamo chiesto ne è stata riconosciuta solo una piccola parte ed è possibile anche che in appello la sentenza venga sì riformata ma in senso migliorativo per i defunti del signor Scipa, insomma. Senta, avvocato, una sentenza che abbiamo detto è destinata, come si dice, a fare giurisprudenza perché potrebbe dare l'avvio a nuove cause di risarcimento. Ma, avvocato, ci spiega, io leggendo con Deborah i giornali che raccontavano un po' di questa vicenda, siete stati paragonati un po' a Davide Golia. Insomma, come siete riusciti ad ottenere un risultato così importante? Come avete fatto a dimostrare il nesso tra fumo e malattia, assolutamente documentato dalla letteratura clinica e scientifica, però a portarlo proprio nelle aule del tribunale? Avvocato, eccolo qua. Sì, io la sento, lei mi sente? Sì, sì. Adesso meglio. Relativamente al nesso causale, fondamentalmente è stata nominata una consulenza tecnica, la quale ha accertato che nel caso concreto la morte del signor Scipa era dipeso dal fumo di sigarette. In altri termini sono state fatte tutta una serie di indagini. Oh, mannaggia. E noi abbiamo perso il nostro avvocato, che però ripescheremo chiamandolo. Intanto, se voi volete chiamarci all'800 24 0024 per saperne di più, ma se volete anche chiamarci per parlare della sigaretta elettronica, perché ci sono delle novità anche in questo campo, arriverà non nel brevissimo tempo, subito, insomma però. Ci vorrà un po' di tempo. Anche perché probabilmente avranno già messo in conto tutte le polemiche, per cui una sigaretta elettronica che viene detta di seconda generazione. E poi noi avremo il piacere di avere di nuovo i nostri microfoni il nostro dottor antifumo. Ormai lo chiamiamo così, ma è già in linea con noi, è il dottor Roberto Boffi. Buongiorno. Buongiorno, io ci sono in linea. Lei vede che lei è una garanzia, ma noi prendere tappabuchi, va bene. Ma non dica così. Bisogna anche essere flessibili, essere pronti, vero? Molto elastico. Io con i fumatori ho imparato a essere molto elastico. E diciamo che è un uomo affidabile, per cui ecco, nel momento del bisogno lei c'era subito quando è venuto, come dire, a sparire l'altro ospite. Sì, c'è da dire che appena si sente dottor Boffi in linea con noi, gli centralini fumano, come si dice. Pensavo telefonate, invece no. Fumano. Sono i centralini che fumano, eccolo. Nicoletta, posso dire riguardo a questa sentenza, io non la conosco bene, le motivazioni, non mi dispiace assolutamente questo nuovo filone, vedremo se avrà un seguito. Volevo ricordare brevemente una cosa a cui tengo molto, comunque, che più di 10 anni fa sono stato perito di una causa non proprio uguale, però c'è stato il primo caso di riconoscimento di omicidio colposo per una morte per crisi asmatica da fumo passivo a Milano, e io insieme a Giovanni Invernizzi, il mio collega Invernizzi, siamo stati periti. Quindi io penso che è vero questo discorso di Davide Golia che avete citato, in questi anni l'avevamo sentito molto anche noi, però a volte le battaglie, quelle più difficili, quelle contro i grossi poteri, sono quelle che danno più soddisfazione. Assolutamente, dà molta soddisfazione anche il nostro Nino da Roma, che ha subito chiamato all'800 24 0024. Forse Nino ha detto: l'avvocato è caduto e adesso vado io. Nino, buongiorno. Buongiorno. Mino con la M. Mino. Esatto. Che sta per? Mino. Sì. Mino, proprio nome di battesimo. Come Mino Reitano. Brava, vedi? Hai visto come mi è venuto in mente? Mino, allora, che ci racconta? Allora, io non sono un fumatore pentito, nel senso che sono felicissimo di aver smesso 3 anni fa. Sì. Fumavo 40 sigarette al giorno. Oggi penso che mi facevo pena, sì, pensando a come sono oggi. Quindi, e grazie alla sigaretta elettronica. Sì. Devo dire che ho soddisfazione con la sigaretta elettronica, non ho mai più toccato una sigaretta, mi dà noia la puzza del fumo, sì, però penso anche che la sigaretta elettronica crea comunque una dipendenza, perché per esempio ci sono varie gradazioni di nicotina. Sì. Io ho scelto una gradazione 0,9 che equivaleva più o meno alle sigarette che fumavo, e comunque quando si esagera anche con la sigaretta elettronica avverti sintomi, nel senso più tosse, più, scusate il termine, più catarro. E quindi comunque c'è un'equivalenza in questo senso. Sicuramente aria più pulita, meno odori. Anche per chi sta accanto a lei? Assolutamente sì, anche se devo dire che mi capita ogni tanto di dimenticarmi la sigaretta. Vede. Dopo qualche ora mi ricordo e comincia a mancarmi. È una situazione che il dottor Boffi conosce bene. Dottor Boffi? Sì. Ogni tanto si dimentica della sigaretta, poi nel momento in cui gli viene in mente allora ritorna la voglia di svapare. Ma Nino ci racconta una storia che è diventata molto comune. Tante persone sono passate dalle bionde alle sigarette elettroniche e si trovano benissimo. Ma sì. Mino ci fa presente alcuni effetti collaterali, se così possiamo chiamarli. Ma sì, una sigaretta elettronica non è un giocattolo. Ecco, la prima cosa che mi viene da dire, questo vale per il discorso di sigarette elettroniche adolescenti, sigarette elettroniche non fumatori, sigarette elettroniche ed ex fumatori. È uno strumento che può essere utilmente e in maniera intelligente utilizzato per farsi meno male e possibilmente togliersi questa dannosissima dipendenza che è quella del fumo di tabacco. Io cito a volte con i miei svapatori, tra virgolette, una citazione che va leggermente modificata, un bellissimo film secondo me di Paolo Sorrentino, che, in cui si dice: progetti per il futuro, non sottovalutare le conseguenze dell'amore, ma in questo caso per le sigarette elettroniche. Quindi io penso che possa e debba rimanere qualcosa da utilizzare per un tempo, in un modo limitato e per un periodo limitato, che noi di solito diamo da 3 a 6 mesi. Quindi rimanere la sigaretta elettronica un supporto a smettere, non diventare una nuova dipendenza. Da 3 a 6 mesi, dice il dottor Boffi. Mino appunto ci raccontava che utilizza una sigaretta elettronica con nicotina. Che tipo di sigaretta elettronica utilizzate? Come vi state trovando? Vi informeremo anche sulle nuove sigarette elettroniche, quelle di seconda generazione, in cui sarà presente il tabacco e manterranno anche il profumo di tabacco. Ma noi nel frattempo abbiamo ripescato il nostro avvocato Gasparro. Ci sono, ritornato. Abbiamo in linea con noi anche il dottor Boffi. Ma allora, dottor avvocato Gasparro, ma ha fatto anche la differenza la famosa scritta, no? Dal 1991 una legge ha obbligato dello Stato a mettere le scritte sulle sigarette, quindi da quella data segna un po' uno spartiacque. Nella sentenza ha segnato uno spartiacqua, nel senso che si è accertato che il tumore era sorto prima del 1991, quindi prima che quelle scritte fossero state inserite sui pacchetti di sigaretta, ed è per questo che è stato possibile anche accertare il nesso causale. Mentre con riferimento ai periodi successivi, il giudice ha ritenuto che era stato fatto quello che doveva essere fatto circa l'avvertimento del danno che provocava il fumo sostanzialmente. Quindi in teoria chi può dimostrare, ma ci sentiamo dopo, di aver subito un danno prima del 91, è meglio magari che verifichi con un avvocato la possibilità. Cuore e denari. C'è chi smette di fumare e c'è chi fuma per non fumare. Ma cosa fuma chi fuma per non fumare? E chi fuma per non fumare, fuma o non fuma? Abbiamo voluto tradurre in uno scioglilingua i dubbi e le domande relative a quella che attualmente è diventata l'alternativa preferita alle bionde, la sigaretta elettronica, che tra divieti e polemiche continua a far parlare di sé come una vera star. Siete passati dal fumo allo svapo? Ci state pensando? Allora raccontateci se siete soddisfatti del cambio, se state usando la sigaretta elettronica in sostituzione delle sigarette tradizionali oppure come metodo per smettere smettere di fumare, oppure siete tra coloro che fanno un po' e un po', qualche svapatina e qualche fumatina. 800 24 00 24, chiamateci per raccontarci i benefici che avete ottenuto, ma soprattutto chiamateci se avete dei dubbi riguardo all'utilizzo della sigaretta elettronica. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Roberto Boffi. Dottor Boffi, abbiamo anticipato la novità, la sigaretta elettronica di seconda generazione, che a differenza delle vecchie sigarette che bruciano il tabacco, si limiterà invece solo a riscaldarlo, ma del tabacco manterrà il profumo. Non è ancora disponibile, ma sta già accendendo le polemiche. Dottor Boffi, lei che cosa ne pensa? Tra l'altro una grande, la Philip Morris, come ricordava Deborah, che sta costruendo, diciamo che attiverà questa produzione in uno stabilimento nel bolognese. È già questo, voglio dire, ha un suo perché. Ma io penso che quello che dicevo prima, no? Cioè, non è un giocattolo, io spero che possa almeno parte di questo fenomeno del fumo elettronico tornare in farmacia, cioè tornare dalla nostra parte, dalla parte della salute e della medicina, e quindi qualcosa per vincere la dipendenza fisica, ma ad esempio riducendo, come dicevo prima, nell'arco di 3-6 mesi gradatamente la quantità di nicotina giornaliera, scalando magari di un terzo ogni mese, ogni due mesi al massimo, per cercare di eliminarla completamente. Più invece si va verso prodotti che ricordano la sigaretta tradizionale o addirittura contengono il tabacco, che già di per sé è comunque qualcosa dannoso anche solo se lo mastichi notoriamente, chiaramente più ci allontaniamo da questa mia prospettiva, che è quella della prevenzione della salute. Quindi questa sigaretta elettronica di seconda generazione, che tra l'altro voglio dire, un investimento grande. Se la dobbiamo guardare solo ed esclusivamente dal punto di vista dei denari, ricordiamo che, come dire, impiegherà 600 persone, si aggiungerà ad Interaba un'altra fabbrica della Philip Morris a Zola Predosa, sempre nell'area bolognese, che produce invece filtri d'avanguardia. Da Crespellano usciranno ogni anno, sentite qua che cifre, 30 miliardi di sigarette, il 6% del mercato europeo. Quindi queste nuove sigarette basate su questa nuova tecnologia, che comunque per il dottor Boffi è, come dire, discutibile, possiamo dire così. È da studiare sicuramente, a me non piace naturalmente avere il pregiudizio, cose che non conosco. Siamo anni che noi come ricerca studiamo il fumo attivo, il fumo passivo, l'emissione delle polveri sottili e di altre sostanze dannose cancerogene nelle sigarette normali, faremo lo stesso con le sigarette elettroniche al tabacco. Chiaramente non la prescriverò mai. Allora, andiamo alle domande dei nostri ascoltatori. Sì. Lasceremo da parte la sigaretta elettronica di seconda generazione, esatto, o al tabacco. Rimandiamo il dibattito al 2015, quando lo stabilimento partirà. Esatto, e soprattutto quando ci saranno degli studi, ma parleremo naturalmente delle sigarette elettroniche che oggi si svapano. Riccardo ci chiama da Vicenza, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Buongiorno, allora, vi racconto un po' la mia storia se volete. Volentieri. Allora, io ho 29 anni, ho iniziato a fumare quando ne avevo 12. Ah, però, precoce. Giù in cielo, giù in cielo. E ho fumato per 16 anni, per altri 16 fino a 27-28 anni. Sì. Poi è venuto a mancare mio papà per cause correlate al tabagismo. Sono entrato in un negozio dove vendevano queste famose sigarette elettroniche, ne ho comprata una e ho buttato via le bionde, ho fumato la sigaretta elettronica e praticamente ho perso prima una batteria, poi la seconda batteria, non ho più comprato le batterie di ricambio e ho smesso anche di fumare anche quella. Ecco, quindi vede il passaggio, esatto, comprando la sigaretta elettronica proprio che smesso. Un po' teoricamente forse dovrebbe essere questo, diciamo nel migliore dei mondi possibile. Riccardo, da quanto tempo non fuma quindi? Quasi 2 anni. Quasi 2 anni, dottor Boffi, quindi? I 2 anni che cosa dicono al nostro dottor antifumo? Che da un anno è diventato un ex fumatore, quindi bravissimo. Allora, dottor Boffi, tante volte Riccardo ci ha raccontato una storia di cui noi abbiamo parlato tante volte. Sembra che quando sentiamo i danni del fumo, quando sentiamo conoscenti che grandi fumatori con tumori tumori polmonari, ricordiamo che il fumo non causa solamente tumori polmonari, ma fa tanti danni. Chi fuma, insomma, fa un po' orecchi da mercante. Sembra che, no, queste cose capitino sempre agli altri. Dottor Boffi. Sì, soprattutto i giovani, no? Comunque quelli sani, lo dico tra virgolette, che sono però la categoria secondo me più affascinante, più intrigante. Poi, per carità, meglio tardi che mai, smettere anche quando si è già avuto una malattia oncologica o cardiovascolare ha un impatto dimostrato sulla qualità della vita, sulla sopravvivenza, sulla storia poi clinica di questa malattia già avvenuta. Però se si può, è bello cercare di aiutare le persone a smettere di fumare prima che i danni si ingenerino, certo, oppure quando sono iniziali. Noi pneumologi in questo senso abbiamo uno strumento favoloso, secondo me indispensabile, che è la spirometria. Quindi quando avete affanno, tosse, anche se non avete una vera e propria malattia, ma sentite che non respirate più bene come prima, andate dallo pneumologo a fare una spirometria e quindi a misurare il proprio respiro. Questo intanto è importante come salute, poi magari può essere anche è un po' come misurare la pressione, ma la spirometria l'esame è suggerito sia alle persone che fumano sia a quelle che non fumano e magari sì, sono stati fumatori passivi. Prima di dare la parola ai nostri ascoltatori, dottor Boffi, parliamo di queste sigarette elettroniche che non contengono tabacco, come lo conterranno invece quelle di seconda generazione, quindi non presentano i rischi della combustione. E quindi, dottor Boffi, basterebbe questo per dimostrare che svapare è più sicuro che fumare, eppure non c'è ancora accordo, tanto che le più note società scientifiche di medicina respiratoria frenano ancora gli entusiasmi e invitano alla cautela. Ma, dottor Boffi, adesso il tempo è passato, le indagini sono state fatte, le ricerche, gli studi, che cosa ancora non vi convince di questi prodotti? No, intanto non è passato tantissimo tempo, perché la medicina, la ricerca a volte richiede anni e anni e studi a lungo termine. Ad esempio, poco si sa veramente ancora sui danni potenziali dell'uso delle sigarette elettroniche a lungo termine, ovviamente. Ma già a breve termine qualcosa è uscito in letteratura e io stesso posso confermare, in quanto pneumologo, parlavo prima della spirometria, sì, che ad esempio i soggetti asmatici non sempre la tollerano, la sigaretta elettronica, questo anche senza nicotina, soprattutto con le cartucce a nicotina, ma anche senza nicotina, perché ci sono dei veri e propri casi di intolleranza a questo vapore emanato, no? C'è un test che si usava in pneumologia anni fa, adesso un po' meno, si chiama test alla nebbia, per cui il vapore scatena un broncospasmo, dei sibili, no? E quindi è un po' la stessa cosa succede con molte persone allergiche, asmatiche, con la sigaretta elettronica. E quindi noi pneumologi dobbiamo dare questa avvertenza e consigliare comunque di rivolgersi a dei medici quando abbiamo la sensazione che questa sigaretta elettronica ci dia fastidio, oppure al contrario, come invece non ha fatto il bravo ascoltatore di prima, abbiamo la sensazione di diventarne dipendenti e questo secondo me non va comunque bene. 800 24 00 24, se svapate, se avete smesso di fumare, se state tentando di passare dalla sigaretta tradizionale alla sigaretta elettronica, se la state utilizzando, noi siamo qua per rispondere alle vostre domande. Dottor Boffi, quindi no per le persone allergiche e le donne in cinta? No, le donne incinte assolutamente no, questo sia con che senza nicotina. Noi abbiamo fatto uno studio importante sulle emissioni di polveri fini e ultrafini da sigarette elettroniche con e senza nicotina, abbiamo verificato che c'è un'emissione, anche se decine di volte inferiore di PM, di particolato fine, dalla sigaretta elettronica rispetto a quella normale, però comunque un po' di polveri sottili vengono emesse da questa non combustione ma da questo surriscaldamento di questo vapore che quando si aspira determina un aumento delle temperature, quindi una donna incinta è meglio assolutamente che non la utilizzi, così come ricordiamo sempre che non è assolutamente falso che si possano accenderle ovunque, perché recentemente è stato introdotto in Italia il divieto di utilizzo in tutti gli edifici scolastici, anche per gli adulti, e quindi sia per l'esempio che per non tornare indietro, secondo me, di 10 anni a prima dell'introduzione della legge Sirchia, la sigaretta elettronica deve essere utilizzata, secondo me, negli stessi ambienti in cui si può usare la sigaretta normale, cioè solo all'aperto. Nicoletta, che impressione ti fanno le sale per fumatori negli aeroporti? Ma ti devo dire, sai che io ormai volo poco, ma prendo, però le sale fumatori, ti devo dire che quando vedo qualche cosa lì legato al fumo penso sempre al dottor Boffi. Non so se la cosa gli fa piacere, perché insieme al dottor Boffi abbiamo fatto il primo reality per smettere di si chiudono di là fumare. In pochi dentro tutto questo fumo. C'è una riduzione però dei fumatori, dottor Boffi, quindi saranno sempre meno frequentate. Sono veramente del... Io sono un po' perverso, per cui sono entrato in una smoking room in un aeroporto. Davvero? Domani riparto, vado in America, e là in America addirittura il fumatore, c'è chi critica questo atteggiamento forse un po' così manicheo, per cui veramente viene additato al pubblico ludibrio. Io penso invece dalla parte, cerco di mettermi dalla parte dei miei pazienti fumatori e quindi informarli anche sulle nostre ricerche, cercare di aiutarli, incoraggiarli naturalmente a smettere di fumare, però al tempo stesso tutelare nella maniera più assoluta i diritti dei non fumatori. Andiamo ai nostri ascoltatori. Andiamo ai nostri ascoltatori ed è pronto Pietro da Milano. Pietro, buongiorno, all'800 24 00 24, numero verde che potete continuare ancora a comporre. Abbiamo 10 minuti di tempo per discutere di questo argomento. Pietro, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per la possibilità dell'intervento. Allora, io ho 41 anni quasi. A settembre, dal 18 fumavo parecchio quantomeno. Adesso da gennaio mi sono fatto questo bellissimo regalo, mi sono comprato due belle sigarette elettroniche, nel caso una venga a scaricarsi c'è l'altra pronta, e sto fumando queste sigarette. Con nicotina o senza? Con nicotina. Con quantità variabili dal 9 a 16 mg. In realtà appunto oggi se mi trovo in un ambiente dove c'è qualcun altro che sta fumando, provo, per carità, non mi arrogo il diritto di essere denominato un non fumatore, anzi lo sono ancora da 196 giorni, però non tocco più sigarette. Quando sento qualcuno fumare, obiettivamente provo un fastidio immane. Beh, questo è almeno un vantaggio, dottor Boffi, sì, della sigaretta elettronica. E poi Pietro ci dai per parlare anche del contenuto di nicotina. Intanto lui non fuma, svapa, per cui se fosse venuto al nostro centro antifumo a 365 giorni noi gli diamo il diploma e lo spillino di ex fumatore, anche se continua a usare la sigaretta elettronica. Premesso questo, gli faccio i complimenti naturalmente e gli consiglio di, cioè, lo raccomando, lo incoraggio a insistere a non tornare alla sigaretta normale. È vero che noi insistiamo perché la sigaretta elettronica venga utilizzata nello stesso modo in cui si utilizza quell'altra, cioè non quando sei in compagnia o di altri a tavola, in macchina, nei locali pubblici, perché è vero che il vapore è meno dannoso del fumo di sigaretta, ma non è detto comunque che piaccia a chi ci sta vicino. Certo. Dottor Boffi, due domande. Sì. La prima, noi ne abbiamo parlato tante volte, ma io penso che sia un messaggio che è utile, aiuta a fare prevenzione. Dopo quanti anni i polmoni sono puliti? Ci scrive un ascoltatore senza fermarci. Ecco, insomma, smettere conviene sempre e i benefici nel breve e nel medio tempo ci sono. Vogliamo ricordarli? Beh, ci sono delle cose che migliorano dopo poche ore. La prima cosa che mi viene in mente è la frequenza del cuore, no? Il battito che si rallenta, ma anche la temperatura, le mani, i piedi, che essendo la nicotina, il monossido di carbonio, sostanze che tolgono ossigeno, vasocostrittrici, tendono a raffreddare gli arti, no? Per cui hai un beneficio già dopo poche ore, dopo pochi giorni anche sul fiato e gradatamente poi per ridurre i rischi cardiovascolari, infarto, ictus e quelli oncologici. L'ultima cosa che si azzera è quella del cancro, per cui circa 10 anni ci vogliono per tornare come un non fumatore, per avere un totale sovvertimento di tutte le cellule bronchiali, come una lucertola che cambia la pelle, e quindi è come non aver mai fumato. Mentre Nicola ci scrive, cosa fa più male, il fumo o le polveri sottili? Dottor Boffi, polveri sottili, il dottor Boffi va in visibilio. Sì, esatto, perché è una sfida che non siamo ancora riusciti a far perdere alla sigaretta, cioè la sigaretta ha sempre vinto nelle nostre gare, tra una sigaretta e un motorino, tra una sigaretta e un'auto, tra una sigaretta e una moto di grossa cilindrata, e quest'anno al World Tobacco Day all'istituto abbiamo fatto addirittura la gara tra una sigaretta, le emissioni di polveri sottili di una sigaretta, di due sigarette e di un tir, e abbiamo dimostrato che le sigarette emettono 6 volte più polveri sottili di un tir. Ci pensi? Mamma mia. Per piccola questo, è così grande. È velenosa. Nella sua piccolezza è perfetta, perché queste polveri fini e soprattutto ultra fine, una quantità pazzesca, che in modo che veicolano la nicotina e gli altri additivi come l'ammoniaca, che devono generare dipendenza nel fumatore. Quindi se adesso questa cosa riusciranno a farla invece che con una combustione a Bologna col vapore, bravi, complimenti, ma io e quelli che lavorano con me all'Istituto Mori ovviamente stiamo dall'altra parte della barricata. Dove vuoi andare, bella Deborah? Allora, voglio andare in vacanza. Vabbè, io ho ancora un paio di settimane. Vito dalla provincia di Sondrio. Vito, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto complimenti per la vostra trasmissione, che seguo spesso. L'argomento oggi è molto interessante. Sì. Grazie. Allora, io più di due anni fa ho comprato una sigaretta elettronica e dopo 12 minuti ho buttato il pacchetto di Marlboro che avevo in tasca. Bene. Fumavo più di 2 pacchetti al giorno di Marlboro e adesso mi dà noia solo sentire l'odore. Mi batto per le sigarette elettroniche da anni, da quando l'ho conosciuta, per diffonderla. Ho seguito con piacere il professor Veronesi, che l'appoggia a spada tratta, il professor Polosa della Lega Antifumo, il professor Tirelli e via. L'unico dubbio che ho è questo: perché quando si parla di qualche piccola controindicazione che potrebbe avere la sigaretta, tipo come diceva il professore ospite prima, diceva si può causare qualche broncospasma negli asmatici, la sconsiglio alle donne in gravidanza, ma cosa vogliamo dire? Allora no la sigaretta elettronica, continuiamo a farci fumare le sigarette? Cioè sarebbe meglio smettere, ma io penso che la sigaretta elettronica sia meglio in assoluto sempre di qualsiasi sigaretta tradizionale, almeno questa è la mia opinione. E poi perché proprio adesso che le multinazionali del tabacco, vedasi l'esperimento di Bologna, stanno entrando in questo settore perché stanno perdendo tantissimo, certo, gli ex fumatori, adesso finalmente se ne parla e sembra che qualcosa cambi dopo che lo Stato ha distrutto questo settore con tasse che vanno dal 60 al 400%. Di cui ha parlato esatto, abbondantemente. Allora, dottor Boffi, insomma, il mio gruppo di lavoro all'Istituto dei Tumori di tutto possa essere accusato, tranne che di avuto un atteggiamento ottuso, una preclusione preconcetta verso la sigaretta elettronica. L'abbiamo studiata, seguiamo decine di pazienti che la utilizzano, come dicevo prima, magari monitorando la loro capacità respiratoria, cercando di aiutarli se possibile a non diventarne dipendenti, però lo consideravo e lo considero tuttora uno strumento molto utile per la cosiddetta harm reduction, cioè riduzione del danno. Non sono mai stato un entusiasta, perché tutto quello che ricorda la sigaretta come gestualità può statisticamente portare un po' allo sfinimento del fumatore, quindi al confronto della serie poi chi me l'ha fatta fare. Però perché no? Devo riconoscere che ci sono dei fumatori che hanno bisogno di assumere nicotina anche per lungo tempo, magari di aspirarla e di tenerla in mano, qualcosa che ricordi la sigaretta. Per cui non ci trovo nulla in contrario, e sulla guerra legislativa della tassazione ovviamente non voglio entrare nel merito, perché non mi compete, però vedo che il trend purtroppo di questi strumenti, quando sento parlare di acquisti delle multinazionali del tabacco, di tabacco addirittura liberato contenuto nel vapore, tende ad andare in un altro senso, quindi non verso la farmacia ma verso la tabaccheria. Dottor Boffi, in chiusura, per chi sia passato dalla sigaretta tradizionale a quella elettronica e volesse provare a utilizzarla per liberarsi, cioè cessare completamente cessazione dal fumo, qual è il modo corretto per utilizzare la sigaretta elettronica? Ma quello che noi consigliamo è di utilizzarla come un prodotto a base di nicotina, quindi come le gomme o i cerotti o gli inalatori che ci sono già da decenni, di cui si conosce molto bene il comportamento anche all'interno del nostro corpo, la cosiddetta farmacocinetica. Quindi assumere un dosaggio di nicotina corrispondente più o meno al numero delle sigarette che si fumano, parlava prima l'ascoltatore, 16 mg, 9 mg sono di solito quelle concentrazioni più frequenti sul mercato, quindi 16 mg su uno un forte fumatore, tipo di 20-30 sigarette, e partire così, oppure da 9 mg se si è fumatori più moderati, e ogni mese provare a vedere se si riesce a ridurre di un terzo, della metà, il dosaggio della nicotina. Se non ce la fa, rimandare al mese successivo. In questa maniera, in 3 mesi o in 6 mesi al massimo, come dicevamo prima, cercare di passare alla sigaretta elettronica senza nicotina. Abbiamo il tempo, secondo te? Secondo me sì, abbiamo 1 minuto e mezzo, sarà molto sintetico. Michele da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, ci rapidissimo, provo. Grazie. Ci provi. Allora, ex fumatore proprio assolutamente convinto, ho provato con cerotti, con anche le gomme, non ha funzionato niente. L'unica cosa che ha funzionato è la mia voglia di smettere, basta, perché il resto non serve, non vorrei fra qualche anno dopo. Per la sigaretta abbiamo aspettato decine di anni per capire che era dannosa, come lo vediamo. Non vorrei fra 10 o 20 anni o 30 anni scoprire che anche la sigaretta elettronica lo è. Pertanto io penso che con la forza di volontà è chiaro che la motivazione è la prima. La motivazione fa la differenza. Dottor Boffi, non tutti però sono pronti in questo momento. No, purtroppo su una cosa ha ragione l'ascoltatore, cioè comunque se un medico deve prescrivere una cosa deve essere diprovata non solo efficacia ma anche innocuità, perché non posso rischiare l'ospedale in cui lavoro, che rappresento, sentirmi accusare, come adesso è successo alla British American Tobacco, per una cosa che è avvenuta decenni prima. No, certo. Questo è un rischio, per cui quando prescrivi una cosa che non è un farmaco il rischio c'è, però è anche vero che alcune persone non ce la fanno, il 30% dei fumatori vorrebbe smettere ma non ce la fa, i cosiddetti hard smokers, e allora qualcosa in più, qualcosa di meglio dobbiamo inventarci tutti assieme, intanto un maggior supporto ai fumatori che vogliono smettere, perché ancora adesso facciamo troppo poco per loro, e chissà che queste sentenze in futuro non possano aprire anche dei rimborsi per aiutare la prevenzione, oltre che l'assistenza a chi di fumo purtroppo si è già ammalato. Questo e poi messaggio... magari anche nuovi prodotti farmaceutici, perché no? Grazie dottor Boffi, buone vacanze in America. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Noi naturalmente terminiamo la nostra trasmissione, ma ritorniamo domani. Grazie a Gianmarco Ferronato, a Laura Vanossi. Salutiamo Marco Lombardo che sta facendo la sua prima tranche di ferie. E noi a domani. Assolutamente sì. Cuore e denari.